le fa non sorridi. Lo so che alla fine non mi resisti. Tu ti sei abituato alle mie crisi e a tutti i miei momenti tristi. Ehi, però stasera brividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera. Stasera ti farò vedere il battico, tocchiamo il cielo in un attimo. Da che fa non sorridi, lo so che alla fine non mi resisti. Tu ti sei abituato alle mie crisi e a tutti i miei momenti tristi. Ehi, per stasera brividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera. Stasera ti farò vedere il battico, tocchiamo il cielo in un attimo. Noi che viviamo così, che ci vediamo un bel film, sdraiati nudi che fumamo G. Giuro che un giorno ti porto a pari. Ti senti confusa, il nostro amore ormai messo sotto accusa. Mi fa male, sento il cuore mio che brucia, brucia. È vero che senza di te mi sento perso, ma forse imparerò a stare in pace con me stesso. In più mi dici che con me non stai più bene adesso, ma sono io quello che piange nel letto, ma giuro che smetterò. Ma poi ricordati che io non ci sarò, quando sentirai che ti manco io non ci sarò. Quando vorrai qualcun altro a fianco non ci sarò, io non ci sarò. Dai dai che fa non sorridi, lo so che alla fine non mi resisti. Tu ti sei abituata alle mie crisi e a tutti i miei momenti tristi. Ehi, per stasera brividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera. Stasera ti farò vedere il battico, tocchiamo il cielo in un attimo. Giro nella zona con i fè, ehi, nella mia capa c'è solo te, ehi. Manchi solo tu vicino a me, ehi. Io che mi interrogo sui perché, ehi. No, non ti manca nessuna messaggia a me, che basterebbe solo un tuo abbraccio. Vorrei tenerti per mano solo un istante e giuro che poi io ti lascio. Giuro che poi io ti lascio andare, o forse io mi sono lasciato andare. Tutte quelle cose che bene non mi hanno fatto, meno di te sicuro mi hanno provocato male. L'amore è il gioco dell'impiccato, l'ho testato. Una parola e ricominciamo tutto da capo. Chi è in grado di aggiustare il mio cuore spezzato? Prima amato, poi disprezzato. Dai, dai, che fa non sorridi, lo so che alla fine non mi resisti. Tu ti sei abituato alle mie crisi e a tutti i miei momenti tristi. Ehi, per stasera brividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera. Stasera ti farò vedere il battico, tocchiamo il cielo in un attimo.